Mike. Avanti. Buonasera, stazione Alfa Bravo. Mi può dare un computer di radio? Grazie. 5, ciao, Fra. Sì, ciao. Alessio. Che però non ho mai capito, ma sì, Alessio non torna. Non sapevo nulla, non mi sapete malissimo, fa curarissimo. Antonello, adesso è arrivato qua a Bacchi, lo stiamo scatenando, adesso io. Ah, ok, quindi Antonello, perfetto. Ascolta, la radio è comprensibile, sì, non è troppo forte, o troppo debole, o con fischio, come preferisci. Ah, no, è perfetto la radio, 5. Ah, ok, meglio così. Perché c'è un coso qua che vabbè, non si vede. Vabbè, meglio così. Sto facendo bene, sì, perfetto. Segnale anche radio. C'è qualcuno che ti chiama? Avanti, chi chiama? Aia, ciao, saluzioni, mi sentito. Non ti stavo ascoltando ancora 5 anni, stavo ascoltando in direttivo, quindi non ti sentivo e ti sento franco. Salutori e ben entrato. Ho capito, c'è l'eco, passa appena. No, c'è Franco Albatros da Sassari. Ti saluta amico di produttore. Sì, ho capito, grazie di cambiato. Ma la macchina ha fatto poco, esatto, sì. Ok, sì, lo sento molto basso tu. Va bene, ci sentiamo, dai, il passo in quelle che guarda un po' di TV. Buon proseguimento e buona serata. Yeah, altrettanto, sentiamo, ciao Fra, state bene. Ciao, ciao. Dimmi. Ti ho capito? Niente, mi stavo... ho cenato due minuti fa e ho ripreso a parlare per un nuovo baracchino adesso. Difficile qui in Sardegna, se sia una cosa del genere, l'ha fatto fuori, perché lo sai anche tu, queste cose avvengono quando c'è una perturbazione molto fredda e una perturbazione molto calda, e quindi succede l'asilo lì, capito? Ma qua da Sardegna non c'è niente, perché siamo stati fortunati che in paesi giorni prima c'era quel freddo e quindi ha attenuato la cosa, se no eravamo stati proprio in mezzo alla merda, davvero. Cioè, trovati 30 gradi il giorno prima e ogni mattina un fronte freddo, sarebbe stato un bel casino a vivere.